Hadith numero 12 da Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui, disse: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, appartiene al meglio dell'Islam di un uomo il suo lasciar perdere ciò che non lo riguarda. Hadith buono, l'hanno riferito così l'imam At-Tirmidhi e altri.